1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi. E vi ricordo che la 151esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata da un bel pezzo, E dunque, forza, forza, animo e ottimismo. Ci sono qui i giornali? Che facciamo? Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ha ragione padre Livio Fanzaga, come sempre. E allora andiamo. Siamo qui a lunedì 21 marzo, i titoli, l'apertura del Sole 24 ore dedicata al fisco, 500 milioni di nuovi dati nella superanagrafe dei conti. In arrivo le informazioni 2015 su saldi, movimenti e giacenze. Mentre Repubblica apre su Obama, abbraccio a Cuba, qui con voi per la storia. Purtroppo però il titolo principale che trovate su tutti i giornali è dedicato a questo tragico incidente in Spagna con 13 studentesse morte. I dettagli sono ancora da chiarire, soprattutto dalle autorità spagnole. Non ci sono le nazionalità delle studentesse che sono morte, ma si teme che 7 di queste possano essere italiane. La morte delle studentesse Erasmus, così apre il Corriere della Sera, ma il titolo più gettonato è la strage delle studentesse. Lo troviamo sulla Stampa, sul Messaggero, sul Giornale, sull'Unità. Dettagli di cronaca, ovviamente, anche sul Secolo XIX, davvero, davvero tristi. Le aperture di altri quotidiani, invece il Fatto Quotidiano, la rete occulta di 007 Carrai, fondi esteri, spioni, faccendieri e l'inchiesta esclusiva su Marco Carrai, fedelissimo di Renzi, questo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Mentre Libero, guida per fare il 730 e pagare meno tasse, entrano le spese mediche nelle nuove dichiarazioni dei redditi precompilate dalle entrate. Voglio partire da che cosa? Non con questa cronaca molto cruda dalla Spagna, che però vedremo più avanti. Ovviamente qui i dettagli poi dei giornali saranno superati dalle notizie che arriveranno durante il corso della giornata, perché i giornali sono stati stampati ieri in tarda serata e non ci sono i dettagli che invece già nella giornata di oggi emergeranno, intanto su quanto sia il numero preciso delle vittime totali e delle vittime anche italiane. Voglio però partire da che cosa? Una novità per quel che riguarda un'azienda importante in Italia, vale a dire Telecom Italia. Nel weekend la decisione, la comunicazione dell'amministratore delegato Marco Patuano di lasciare l'azienda, dove è stato 26 anni dopo aver constatato la volontà da parte del primo azionista, vale a dire il francese Vivendi, di dare discontinuità alla gestione. Questo ovviamente cambia l'assetto di Telecom Italia. Oggi ci sarà molto probabilmente l'annuncio, come scrive il Corriere della Sera con Federico De Rosa a pagina 10, del nuovo amministratore delegato. Il nome ancora non ci sarebbe, anche se Vivendi lo sceglierà. Spetta dunque al numero uno di Vivendi, vale a dire Bolloré, scegliere il nuovo amministratore delegato. E per questo già ci sono dei nomi, si parla dell'ex direttore generale della RAI Gubitosi, di Massimo Ibarra di Wind, dell'ex CFO di Telecom Andrea Mangoni, si parla su altri giornali di Cattaneo, insomma i nomi circolano e oggi Flavio Cattaneo, vale a dire l'attuale amministratore delegato di NTV, cioè di Italo, del treno Italo. Ora bisognerà vedere il nome. La cosa però più interessante sono sul Corriere della Sera la liquidazione, questo ve lo dico come notizia, di Patuano, 26 anni in azienda, appunto, dovrebbe prendere la liquidazione più una buona uscita di 7 milioni di euro. Ma la notizia forse più interessante che riguarda Vivendi non è, almeno secondo Repubblica, Telecom, ma è Mediaset, perché in prima pagina di Repubblica e poi due pagine all'interno, pagina 14 e 15, eccolo qua il piano Bolloré-Berlusconi per portare Mediaset sotto le insegne francesi. Cioè, scrive Repubblica, Vivendi è pronto a uno scambio di azioni, è pronta ad acquistare Mediaset. Giovanni Pons e Claudio Tito raccontano: le TV di Mediaset potrebbero presto finire sotto le insegne francesi ed essere inglobate dal colosso dei media Vivendi guidato da Vincent Bolloré. Il governo Renzi in posizione neutrale, in quanto non ha intenzione di interferire se si tratta di accordi tra società private e quotate in borsa. Racconta Repubblica che il piano ad ampio raggio è stato messo a punto da Bolloré, il suo entourage, e da Silvio Berlusconi, il quale alla soglia degli 80 anni si è ormai convinto che il futuro di Mediaset non possa essere gestito in famiglia. Proprio le resistenze dei figli a una vendita secca di Mediaset hanno fatto in modo che il passaggio di mano avvenga in modo graduale e progressivo, ma fin dall'inizio dovrebbero essere messi nero su bianco i passaggi successivi che porteranno nell'arco di qualche anno Vivendi a controllare il gruppo del Biscione e la famiglia Berlusconi a detenere un pacchetto importante della società media francese. Di tutto ciò, scrive Repubblica, sarebbe già stato avvertito il governo di Matteo Renzi, probabilmente da Bolloré in persona, in un incontro con il premier italiano svoltosi circa un mese fa. E quindi è tutto previsto. Che cosa c'è nel progetto? Il progetto è quello di fare una TV internet alternativa a Netflix. C'è tutta la strategia anche sulla Rai, su Telecom. Insomma, in questo articolo di Repubblica si parla del possibile passaggio sotto insegne francesi di Mediaset. Tra l'altro si racconta a pagina 15 sempre di Repubblica chi sia Vincent Bolloré, finanziere bretone che si sveglia ogni giorno alle 6 del mattino, lavora 15 ore, va a messa la domenica, evita le mondanità, ha un carattere forte, autoritario, diventato già leggenda, tanto che di recente ai dipendenti da Vivendi disse: vorrei che capiste che non sono uno psicopatico, una delle frasi celebri. E comunque c'è il ritratto di Vincent Bolloré, la sua irresistibile ascesa. Venendo invece a questioni di numeri che mi hanno molto colpito nel weekend e che oggi vengono ripresi ancora da Repubblica, Antonello Cassano torna sugli sprechi del Ferrovie Sud-Est, società del Ministero delle Infrastrutture che è stata commissariata per troncarne la mala gestione. C'è questa relazione del Ministero che racconta come si siano sperperati milioni e milioni di euro. Per esempio il classico, le consulenze: 272 milioni di euro di consulenze nel triennio 2013-2015. Ma c'è perfino, pensate, l'indennizzo d'oro da 98 euro all'ora per la trasferta al contrario del direttore del personale, non per recarsi fuori dall'azienda ma in azienda. Voi dite: no, ma non è incredibile? Ebbene sì, il direttore del personale di Ferrovie Sud-Est, oltre allo stipendio da 220.000 euro l'anno, prendeva 98 euro all'ora per andare in azienda a Bari, perché lui, per motivi di salute, gestiva da Roma, da un ufficio a Roma, Ferrovie Sud-Est, che ha sede a Bari. Tutto quindi messo nero su bianco. Gestiva da casa, di fatto un caso di smart working per la sua attività, era tutto controllato da Roma, e quando andava a Bari prendeva 98 euro orari. Nella relazione si legge: si configura il paradosso della trasferta al contrario, non per recarsi fuori dall'azienda ma per recarsi in azienda e venire pagato 98 euro l'ora. E poi le consulenze, appunto, insomma uno sperpero totale di denaro. Ora il ministro Delrio dice: il dossier finisce in mano ai magistrati per vedere se c'è qualcosa da, come dire, da indagare ulteriormente. A proposito di soldi, sentite qui cosa scrive il Messaggero. Attenzione. Pagina 6. Un'inchiesta fatta tra l'altro dall'ex sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, esaminando i numeri del Messaggero di Roma, del comune di Roma. Tutto finisce sul Messaggero. A Roma servono 10 miliardi in più. Roma Capitale vanta le imposte più alte in Italia, ma le entrate complessive sono assai modeste. È un confronto tra Milano e Roma. Milano ha entrate per 7,6 miliardi. Roma solo 5,1 miliardi e tenete conto che Roma è 7 volte più grande di Milano. Cioè Roma conta un numero di abitanti che dovrebbe far arrivare molte più entrate al comune. Roma invece incassa 5,1 miliardi mentre Milano 7,6. E ci si chiede com'è possibile che una città 7 volte più grande di Milano tiri avanti con un bilancio più magro di 2 miliardi e mezzo di euro in meno. C'è poi il secondo punto, il 57% delle entrate di Roma, cioè 2,9 miliardi, è costituito da tasse. Si paga nella città eterna l'aliquota sui redditi più alta d'Italia, lo 0,9%, con un'esenzione solo per chi guadagna fino a 12.000 euro. A Milano il prelievo è dello 0,8%. Ma i residenti che non pagano il balzello sono quelli che hanno redditi fino a 21.000 euro. Insomma, come fa Milano a disporre di tanti più soldi rispetto a Roma? La prima risposta più banale è che incassa di più per i servizi forniti ai cittadini. Asili, mense, musei, affitti, mercati. Il Campidoglio incamera 375 milioni. Il Comune di Milano 832. E ripetiamo, Roma è 7 volte più grande di Milano. Perché? Beh, come ha dimostrato Tronca, praticamente a Roma ci si disinteressa di incassare gli affitti delle unità immobiliari di proprietà, stimata la perdita di 100 milioni l'anno. E proprio questo è il premio. Mani sul volante per l'articolo che mi fa pensare della giornata. Sergio Rizzo racconta, pagina 21, una storia già risaputa, proprio nel giorno in cui il commissario Tronca renderà noto un dossier facendo, si spera, anche nomi e cognomi dei responsabili di chi ha permesso che Roma non incassasse più denaro dagli affitti degli immobili pubblici. Eccolo qua, Sergio Rizzo, le case del comune in centro a Roma, dove l'85% non paga l'affitto. Così gli inquilini, l'85%, non sono catapecchie, non sono indigenti, non sono canoni astronomici, ci sono anche canoni, ricordate, da 7 euro al mese. Eppure l'85% degli inquilini del comune di Roma, di immobili del comune di Roma, non paga l'affitto. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Caro il Milan, ti ascolti proprio volentera la mattina. Po' meno di che te parli del calcio, perché il me piasmiga tanto. Però anche da un passalà. Fabrizio, dialetto valtellinese. Grande Fabrizio, passato un'infanzia in Valtellina, a Piateda, a Tresivio ancora adesso ogni tanto. Che bei posti, che bei posti. Shut e Pizzoccheri e Ale, viva la Valtellina. E allora, cari amici, purtroppo però i giornali oggi raccontano, come detto in apertura, di questo incidente automobilistico in Spagna nel quale hanno perso la vita, si pensa, 13 persone, 13 ragazze dell'Erasmus, che facevano il programma Erasmus, quindi studentesse. Di queste molto probabilmente sono 7 le vittime italiane. In realtà i dettagli ancora non ci sono, nel senso sul numero e anche sull'identità delle vittime, e questo ovviamente getta a maggior ragione nello sconforto e nella preoccupazione, nel dramma, i familiari delle ragazze che non hanno ancora delle informazioni dettagliate su quello che sia accaduto. Certo, pagina 2 del Corriere della Sera parla di alba tragica ieri in Spagna, per l'Italia e per l'Europa. Un pullman di studenti universitari Erasmus di ritorno dalla festa di Falò a Valencia ha invaso la corsia opposta. È stata una strage, 13 vittime, tutte studentesse che avevano scelto Barcellona per un periodo di studi universitari. E dopo la serata a Valencia di fuochi e magia erano di ritorno ed ecco l'incidente. Una curva, una sterzata improvvisa, poi solo sangue e lamiere. 57 gli studenti a bordo, di 22 nazionalità diverse, quasi tutti europei. A loro mancava un centinaio di chilometri per arrivare alla meta, Barcellona. Ecco, e questa frase: ci sarebbero fino a 7 vittime italiane, ma non c'è certezza. Fino a ieri la Farnesina, cioè il Ministero degli Affari Esteri italiano, ha diffuso questa nota. Ovviamente potete immaginare, oltre alla cronaca, e noi di Radio 24 vi terremo aggiornati durante tutto l'arco della giornata, ovviamente ascoltate i giornali radio perché, e le nostre trasmissioni, per capire se ci saranno notizie confermate o meno. Ci sono delle foto, io non voglio dire i nomi, appunto, perché ci sono delle foto, ma di alcune di queste ragazze, della maggior parte non si conosce il destino ancora, come stiano. Certo, c'è la disperazione di alcuni familiari, raccolte anche da Repubblica, pagina 7. Voi sapete qualcosa, dicono ai giornalisti, vi prego, ditemelo voi come sta mia figlia. È abbastanza incredibile, ma nella concitazione, nella confusione, anche i genitori non sanno quale sia il destino preciso dei loro ragazzi, delle loro ragazze, se siano sopravvissute, se stiano bene, se stiano male, se addirittura purtroppo siano morte. Comunque questa notizia di cronaca con cui aprono la maggior parte dei quotidiani. Mentre se vogliamo andare alla politica, beh, la politica narra le solite cose, la rissa all'interno del Partito Democratico, oggi c'è la direzione del PD alle ore 18 e Renzi tuona, faremo i conti. Faremo i conti, l'audio lo abbiamo sentito anche alle 6.30, Matteo Renzi, il premier, dice: io conosco un metodo per non avere Verdini o Alfano nella maggioranza, vincere le elezioni al contrario di quello che abbiamo fatto nel 2013. Quindi è una risposta chiara a Bersani, che aveva rinfacciato a Renzi di governare coi voti che aveva preso lui, e Renzi dice: beh, devo avere Verdini o Alfano in maggioranza perché nel 2013 appunto non abbiamo vinto le elezioni. Comunque dice ai suoi Renzi, nella classica abusata, strabusata formula dei retroscena, in questo caso del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli a pagina 12, Renzi dice ai suoi: io volevo la mediazione e non lo scontro, ma loro mi ci vogliono tirare per i capelli, e allora basta piccole beghe in direzione faremo i conti. È un po' come quella maestra che dice all'allievo: non hai studiato, domani ti interrogo, faremo i conti. Così Renzi alla minoranza del PD. Mentre invece le amministrative, c'è stato un po' un rallentamento dopo giorni di spettacolo puro. Ora si assestano tutte le formazioni politiche in attesa della lunga sfida alle amministrative di giugno. A Roma la domanda è: Berlusconi terrà duro e porterà avanti Bertolaso col rischio di far implodere il centrodestra, oppure, come qualcuno ha fatto capire, in realtà Berlusconi si sta convincendo e lo farà nelle prossime 48 ore che Bertolaso non è il cavallo vincente e magari punterà tutto, chissà, su Marchini, dicono alcuni, altri addirittura azzardano una conversione clamorosa su Giorgia Meloni, chi lo sa. Comunque al momento Berlusconi resiste, anche il giornale dice avanti con Bertolaso, però Bertolaso che dice: non c'è alcuna intenzione di Berlusconi di farmi ritirare, io sono qui, lavoro, sono tranquillo e vado avanti, scrive anche il Corriere della Sera, si procede per ora in ordine sparso e chi vivrà vedrà. In realtà le novità non paiono finite. Un interessante articolo c'è invece sul Corriere della Sera, firma Emanuele Buzzi, pagina 15, e racconta uno scenario del Movimento 5 Stelle. Per la verità, da parte del Movimento 5 Stelle c'è un no comment, ma giura il Corriere della Sera, entro questa domenica di Pasqua, dunque in questa settimana, alcuni esponenti apicali del Movimento 5 Stelle, tra cui Luigi Di Maio, forse il più celebre, incontreranno i rappresentanti diplomatici dei maggiori paesi europei in Italia. Il Maxi Summit coi diplomatici, così il Movimento 5 Stelle tesse la tela in Europa. I partecipanti dovrebbero essere tra 20 e 25, un summit in piena regola. Visti i numeri dell'incontro, risulta difficile credere che sia stato il Movimento a chiedere il vertice, quanto piuttosto è più probabile ritenere che ci sia una volontà comune dei paesi interessati nell'approfondire la conoscenza e i legami col Movimento 5 Stelle. Ora però il Movimento 5 Stelle dice no comment, ma potrebbe questo incontro segnare una svolta nei rapporti politici del Movimento e potrebbe essere foriero di novità a livello internazionale. Chissà, ci sarà questo incontro 5 Stelle diplomatici europei in Italia? Staremo a vedere. Quello che c'è invece è che probabilmente ci sarà una nuova mozione di sfiducia, questa volta al Senato, per il ministro Maria Elena Boschi. Lo vuole il Movimento 5 Stelle, la vuole anche la Lega. Potrebbero unirsi. La vicenda è sempre la Banca Etruria e il ruolo del padre Pierluigi Boschi, padre del ministro Maria Elena Boschi, soprattutto dopo che, come raccontano oggi tutti i giornali, si è sparsa la notizia della richiesta del sequestro di beni, è l'inchiesta giudiziaria di Arezzo, e l'iscrizione di Boschi e gli altri consiglieri del CDA di Banca Etruria nel registro degli indagati. La procura chiede di confiscare al direttore generale Bronchi la somma di 1,2 milioni che era stata lui liquidata, che è contestata, e in quel CDA che firmò quella buonuscita c'era anche come vicepresidente Pierluigi Boschi. Eccolo qui, Fiorenza Sarzanini sul Corriere: stipendi d'oro, fidi, consulenze, tutte le accuse al CDA di Banca Etruria. E ancora per la Stampa, Francesco Maesano racconta: 5 Stelle potrebbe unirsi con la Lega per la mozione di sfiducia contro il ministro Boschi. La precedente mozione di sfiducia non passò, ma era alla Camera, dove i numeri sono certi, mentre invece si racconta in questo scenario che una nuova mozione di sfiducia, questa volta al Senato, potrebbe costringere a numeri un po' più ballerini il governo Renzi. Staremo a vedere. E intanto che dobbiamo dire? Niente, oggi va tutto liscio così. Pareggini. Vero Mauro Meazza? Buongiorno. Di questo ti dirò fra un momento. Come sai, essendo lunedì, oggi vorrei esprimermi in endecasillabi. Ah, giusto, è vero. Bello. Sono già sulla sedia per recitare la poesia, come usa, e quindi vado subito a leggerti questi versi. Quali colombe dal disio chiamati, financo i tuoi due urini solitari, planano tutti nella banca dati per la memoria dei dati bancari. E ti racconta il sole d'oggidì del maxi censimento in grande disco, così come scriviamo di CFC, ma tu non ti cruciar che è sempre fisco. E c'è l'esperto, quindi non distrarmi. Sul sito c'è un ebook e sul giornale consigli sui contratti e sui risparmi. E poi c'è l'occasione, niente male, dei fondi UE per le professioni. E ancora ti invito a far tesoro dei numeri delle immatricolazioni nelle università, poi nel lavoro. Che dire di un campionato ormai minore? E non che una tua vittoria sulla Lazio ieri sera avrebbe fatto più clamore del volo di Samantha nello spazio. Traffico! Alessandro Milan! Non ce la faccio più, andiamo a vivere su un altro pianeta dell'informazione. Non male, dai, però un po' più ottimista, caro ascoltatore, un po' più ottimista. Grazie comunque per le sigle al 349-238-6666 via WhatsApp, mentre c'è chi chiede assolutamente di sapere la marca della grappa di Mauro Meazza. No. Chi vuole l'antidoping mentre è un profluvio di... Per fortuna esiste Meazza, il nuovo Dante, Meazza Nobel, Meazza in rima for president, grande Meazza, mi illumino di Meazza. Insomma, diciamo che effettivamente una costante della poesia di Meazza sono i due urini miei. Questa cosa è un po' ossessionato dai miei due urini, me li vorrà mica rubare il nostro Mauro Meazza. Va bene, vedremo, regoleremo i conti, come Renzi dice di Bersani, regoleremo i conti al bar davanti a un buon caffè tra poco, caro Mauro Meazza. Allora vi ricordo che a livello internazionale ci sono tante notizie interessanti oggi sui giornali, a cominciare dall'arresto di Salah Abdeslam, con i particolari. Salah Abdeslam è uno di coloro che al Bataclan in Francia ha colpito, o meglio lui no, perché alla fine si è rifiutato, non si è capito, ovviamente i dettagli verranno poi resi noti se si riesce a capire quale sia la sua verità. Forse lui doveva farsi esplodere allo stadio, così dice Salah Abdeslam, che raccontano ora dal Belgio, dalla polizia belga dove l'hanno arrestato, stava preparando altri attentati. Questo almeno raccontano i poliziotti. Con lui, Salah Abdeslam, racconta Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera a Bruxelles, pagina 6, ha trascorso i suoi due ultimi giorni di libertà chiuso in uno sgabuzzino, in un ripostiglio praticamente. Ormai ossessionato, abbandonato da tutti gli appoggi logistici, rivela questa sua voglia di star chiuso in uno sgabuzzino quale fosse lo stato psicologico di questa ex primula rossa del terrorismo internazionale. Sta di fatto che stava per colpire ancora, dicono dal Belgio. A me inquieta di più però ciò che è l'allarme inglese, l'allarme della Gran Bretagna, l'allarme dei servizi segreti inglesi che dicono: temiamo attacchi multipli in Gran Bretagna. Come a Parigi, più di Parigi, peggio di Parigi, scrive Enrico Franceschini su Repubblica. I servizi segreti temono un attacco con fino a 10 attentati contemporanei nella capitale britannica, a Londra. Un'azione enorme e spettacolare, per rispondere alla quale i comandi dell'esercito sono pronti a intervenire con tutti i corpi, inclusi artificieri, specialisti della guerra nucleare, chimica, batteriologica. Beh, insomma, quando si dice tranquillizzare la popolazione, il timore di attacchi multipli a Londra. Lo faccio vedere in diretta, siamo in diretta anche sulla su Facebook, su 24 Mattino, come si chiama, come si dice? Vabbè, in diretta, andate sulla nostra pagina 24 Mattino su Facebook e ci potete vedere anche bello, mi potete vedere bello sveglio, la classica sveglia delle 5 del mattino. Va bene, comunque mi inquieta un po', insomma, questo allarme dalla Gran Bretagna, ma sta di fatto che finisce su tutti i giornali. È un momento storico invece a livello mondiale, perché il presidente americano Obama è atterrato ieri a Cuba. È una pagina certamente di storia raccontata. Ora bisognerà capire come andrà questa visita, quali saranno gli sviluppi, quali saranno i discorsi. Per ora c'è la cronaca dell'atterraggio, dell'arrivo, i primi passi, i primi gesti, come racconta il Corriere della Sera. Obama che scende e si porta l'ombrello, cioè si tiene l'ombrello. Voi dite: vabbè, ma anche noi teniamo l'ombrello, ho capito, ma è il presidente americano, anche da questi gesti si vuole comunicare qualcosa. Per esempio, ieri Obama è intervenuto nella trasmissione del più celebre comico cubano, Panfilo, protagonista di un seguitissimo programma, Vivir del Cuento. L'attore finge di chiamare l'Istituto Meteorologico dell'Havana per sapere se pioverà il giorno della partita amichevole di baseball che ci sarà tra la squadra di Cuba e i Tampa Bay Rays. Dall'altro capo del telefono risponde invece The Real Obama, che quindi compare sugli schermi, sulle TV cubane, e Obama si dice impaziente di arrivare a Cuba. È un passo nella storia, è il primo leader americano dopo 88 anni ad arrivare a Cuba. Certo, proprio in contemporanea sono stati arrestati 50 dissidenti, in qualche modo è anche un po' la risposta di una parte del regime cubano che risponde così all'arrivo di Obama. Torniamo a cose italiane. Mi ha molto colpito l'inchiesta di Repubblica e mi ha sconvolto, certo, perché tutti noi ogni giorno buttiamo un po' di cibo, capita, si cerca di non farlo, ma qualcosa a volte finisce nel cassonetto. Il problema è che i dati sbattuti in faccia alla Repubblica sono impressionanti. Dal frigo al cassonetto, il cibo che buttiamo via vale 13 miliardi di euro l'anno. Faccio vedere anche su Facebook qui, 13 miliardi di euro. Buttiamo ogni anno, secondo alcune stime, 300, è una stima di 348 euro all'anno per famiglia gettati via, 13 miliardi di euro in totale. Cioè, una roba incredibile, 15 milioni di tonnellate di cibo perduto ogni anno. Ecco allora che c'è una legge in questo momento in discussione, anche alla Camera, una legge per il riutilizzo del cibo, perché spesso ci sono anche leggi burocratiche che lo impediscono, e questa inchiesta però mi sconvolge. Queste cifre le trovate su Repubblica, pagina 22-23. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, e siamo ancora su Repubblica. Eccolo qua, un'intera pagina che faccio vedere, un'intera pagina a firma Raffaella De Santis, racconta che attori, politici, scrittori, sempre più persone utilizzano uno strumento fantastico che coinvolge, collettivo, che ha seguito le newsletter. Ma chi se ne frega?